Le organizzazioni non governative sono invecchiate, forse è il momento di un ripensamento. Caustico e ben informato su un pianeta che ha seguito sui campi di battaglia, ma anche nelle operazioni post-conflitto, David Reif traccia la storia recente di un periodo controverso, quello che vede il mondo della solidarietà sempre più invischiato in un dilemma che sta finendo per immobilizzare in una palude chi si rifà al dettato umanitario di imparzialità, indipendenza, neutralità. Tre regole d'oro che l'epoca delle guerre umanitarie, col suo sottile bagaglio di aggettivi e la scusa della difesa di qualche diritto, ha finito per stemperare in una sorta di confusione pericolosa, facendo associare alla vittima sia il salvatore col suo bagaglio di medicine ed alimenti, che il carnefice, lui stesso pronto ad arrivare sul luogo del delitto, il dopoguerra, con antibiotici e razioni alimentari distribuite all'ombra di una mitragliatrice. Mai come con la guerra all'Iraq il nodo è venuto al pettine 140 anni dopo che Henri Dunant, il creatore della Croce Rossa, provava a fissare il decalogo del buon umanitario. Ma la guerra infinita, giusta per decisione di qualcuno, umanitaria per consiglio di altri, ha finito per mischiare le parti, schiacciando gli umanitari troppo spesso dalla parte dei vincitori. L'occasione per parlarne per la prima volta in Italia in modo organico è la 3 giorni che si è svolta a Pisa settimana scorsa, organizzata da Medici Senza Frontiere, da sempre in prima linea sul fronte del dibattito, oltre che su quello dell'emergenza, e dalla Scuola Sant'Anna di Pisa, forse la nostra più autorevole accademia, in grado di sfornare i civil servant del verbo umanitario. Dovremmo saper accettare, dice Reif, autore di un libro che ha rimesso il purismo umanitario al centro del dibattito, Un giaciglio per la notte, uscito in Italia da Carocci. Non bisogna andare, dice, dove la gente non ci vuole, in Iraq ad esempio, dove tutto sembra dimostrare la grande confusione che regna sotto il cielo umanitario, confusione non con le stelle, ma con le stellette degli eserciti di liberazione. Tanti relatori, tante le questioni di alto profilo, un dibattito che in Italia resta confinato tra gli addetti ai lavori e che conosce anche una scarsa produzione letteraria, se si esclude l'ottimo contributo di Giulio Marcon, L'ambiguità degli aiuti umanitari, uscito da Feltrinelli, scritto però prima dell'Iraq, madre vera di tutte le confusioni. Emanuele Giordana, lettera 22 a Misnet.